Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Al microfono oggi Simone Spezia, saremo insieme fino a giovedì, poi venerdì torna Sebastiano Barisoni. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Come sempre, di cosa parleremo oggi? Quali saranno i temi di giornata? Sicuramente ci occuperemo del vertice di Ventotene, è attesa a breve la conferenza stampa congiunta del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, della Cancelliera tedesca Angela Merkel, del presidente francese François Hollande. Appunto, la conferenza stampa sarà alle 18 per questo vertice trilaterale che si svolgerà su una portaerea al largo di Ventotene, luogo simbolico perché là fu redatto il manifesto firmato da Altiero Spinelli, nel quale si delineava l'idea di un'Europa federale dopo la tragedia dei totalitarismi della guerra, e anzi in realtà fu scritto da Spinelli al confino mentre i totalitarismi stavano andando alla guerra. Un luogo simbolico nel quale si spera di recuperare qualcosa dello spirito europeo dopo il referendum sulla Brexit, dopo la pressione che sta arrivando su una serie di governi europei da parte dei cosiddetti populismi. C'è da dire su questo che il punto fondamentale è che si trovano e si riuniscono questi tre leader in attesa di un vertice che si svolgerà poi a Bratislava, nel quale saranno riuniti i 27 leader europei. Si ritrovano questi tre leader alla vigilia di voti importanti. Il voto per le presidenziali francesi, per un Hollande in caduta libera nei sondaggi e nella popolarità, e che però proprio pochi istanti fa ha annunciato che si ricandiderà all'Eliseo, le elezioni politiche per Angela Merkel e il referendum costituzionale per il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Le elezioni politiche tedesche arriveranno in realtà nel 2017, ma i tedeschi sono sostanzialmente già in campagna elettorale. Ed è difficile, a dire il vero, ma questo ce lo faremo dire dai nostri commentatori. Avremo Adriana Cerretelli, come spesso facciamo quando trattiamo di temi europei. Avremo Gerardo Pelosi, se riusciremo a collegarci, perché si trova a Ventotene e la linea non è esattamente ottima. È difficile quando ci sono degli appuntamenti elettorali che stanno arrivando, è difficile che si possano prendere delle decisioni un po' più di lungo termine, che non guardino appunto al breve termine e al proprio personalissimo tornaconto elettorale o al tornaconto elettorale del proprio partito. Questo sarà il nostro primo tema, il tema di apertura. Dopodiché ci occuperemo più specificatamente dell'Italia, lasciando un attimo da parte quello che lo stesso nostro direttore Roberto Napoletano, in un editoriale firmato ieri, parlava dei numeri all'otto che accompagnano le congetture agostane sulla legge di stabilità prossima avventura. Ebbene, noi lo sappiamo benissimo come funziona in questi casi, perché di leggi di stabilità ne abbiamo viste tante, circolano tante voci, tanti numeri, tante dichiarazioni di vario genere, un tira e molla tra le varie parti dell'esecutivo, il presidente del consiglio che vuole fare una cosa, il ministro dell'economia che dall'altra parte vuole tenere più stretti i cordoni della borsa. Ci sono una serie di cose importanti da fare e anche di questo parleremo, ascolteremo quello che ha detto ieri il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Detto ciò, sappiamo benissimo che agosto è un classico periodo nel quale vengono tirate fuori una serie di ipotesi, a volte anche casuali e a volte, diciamocelo, anche da parte governativa, di maggioranza e di chi c'è dentro, per tastare il terreno, tastare il polso dei commentatori e anche tastare il polso della gente. Ci occuperemo d'Italia, dicevo, non dal punto di vista della legge di stabilità, ci arriveremo sicuramente in settimana, questo sarà un tema che toccheremo, ma per un bel pezzo firmato oggi da Gianni Trovati sul Sole 24 Ore del lunedì, nel quale racconta un po' la condizione del debito delle regioni italiane. Una condizione di debito che si è progressivamente aggravata, una condizione di debito che porta le regioni ad avere 33 miliardi di debiti complessivamente. È un debito che è cresciuto enormemente, ma non è cresciuto enormemente solamente perché le regioni hanno speso male, e questo lo abbiamo raccontato sempre, ma perché sono cambiati i criteri contabili, nel senso che fino a poco tempo fa le regioni avevano la possibilità, ve la dico molto semplice, di imbellettare il bilancio, di metterci delle poste che facevano in modo che il debito sembrasse più basso. Poi sono intervenute delle nuove regole e le corti dei conti regionali hanno preso in mano questi bilanci, hanno rettificato i numeri e hanno detto: no, guardate, il vostro debito è molto più alto. La scure sta per arrivare anche sui comuni, e questo sarà il secondo tema della trasmissione. I mercati oggi hanno avuto un cedimento quando il petrolio si è riportato sotto i $48 al barile. Sono in realtà ancora piuttosto incerti, anche se Milano sembra aver preso la via del rialzo. FTSE MIB più 0,61%, FTSE All Share più 0,54%, Parigi cede lo 0,11%, Francoforte lo 0,27%, Londra lo 0,41%, l'America ha lo Standard & Poor's 500 che è in perfetto pareggio e il Dow Jones che guadagna lo 0,01%. I singoli titoli, ma poi ci arriveremo nel nostro consueto approfondimento di borsa, vedono i bancari, sono questi che sostengono Milano come spesso accade, così come la buttano giù spesso, la Pop Milano, la Popolare Milano che guadagna il 4,20%, Banco Popolare il 2,7%, Ubibanca l'1,9%, Unicredit l'1,71%, bene anche Ferragamo che guadagna l'1,62%, Mediobanca l'1,5%, in fondo all'istino Saipem che c'è dell'1,5%, Telecom Italia lo 0,88%, Tenaris lo 0,85%, CNH lo 0,75% e altri titoli come Fineco Bank, A2A, ST Microelectronics e Snam sono poco sotto la parità, tutti gli altri titoli sono o in parità o positivi. Le notizie in breve di oggi. Allora, iniziamo come sempre dalle materie prime. L'oro che scende dello 0,5% a $1,333 l'oncia. Petrolio che ha fatto segnare un netto calo, il Brent, quello del Mare del Nord, con consegna a ottobre un meno 2,5%. A 49,6 dollari al barile in questo momento. Vi ricordo che abbiamo i dati sul petrolio ritardati di qualche minuto, ce l'avete fatto notare qualche tempo fa, lo ricordo per chiarirlo bene. E il WTI con consegna ad ottobre giù del 2,5% a $47,8 al barile. È arrivata un'importante notizia di un'importante acquisizione oggi, quella di Pfizer, che ha acquisito Medivation per $14 miliardi, una grande operazione nel settore farmaceutico, $81,50 per azione in contanti. A cosa serve questa azienda Medivation a Pfizer? C'è un farmaco contro il cancro prodotto da questa azienda, contro il cancro alla prostata, Xtandi, che secondo gli analisti genererà ricavi annuali per $1,33 miliardi entro il 2020. È una sconfitta sostanzialmente per la francese Sanofi. Pfizer e Sanofi hanno infatti passato gli ultimi 5 mesi a corteggiare, a far pressione su Medivation per raggiungere un accordo di acquisizione. Alla fine i francesi hanno perso. Oh, a proposito di economia internazionale, di notizie che arrivano dagli Stati Uniti in particolare, beh, ve lo accennava anche poco fa GR24, c'è cioè questa notizia curiosa. Kobe Bryant, l'ex campione di basket, che sappiamo è cresciuto in Italia, stella dei Los Angeles Lakers, ed è stato stella dei Los Angeles Lakers per 20 anni, ha lanciato un fondo di venture capital insieme ad un imprenditore che si occupa anche di scienza del cervello, Jeff Stiebel. L'ha annunciato il Wall Street Journal, un fondo di venture capital da 100 milioni di dollari investirà in compagnie della tecnologia, dei media e dei dati. Insieme i due, Bryant e Stiebel, hanno già investito in una quindicina di aziende dal 2013 a oggi, ma solo dopo il ritiro del campione dal basket hanno deciso di formalizzare la loro collaborazione e il fondo. Devo dire la verità, niente male, un ex giocatore che ha appena lasciato e che decide invece di mettersi a fare il commentatore dell'NBA da qualche parte o ritirarsi nella sua villa privata, che decide di fare l'imprenditore. C'è poi la vicenda Volkswagen, per passare da questa parte dell'oceano e alla Germania. Volkswagen che ha ripreso le trattative con uno dei suoi fornitori, Prevent Group. Un braccio di ferro c'era stato tra le due aziende che ha bloccato le consegne e interrotto la produzione in alcuni impianti. Tutto questo dopo un appello del governo tedesco che aveva detto: signori, riprendete i negoziati. Il produttore di auto tedesco ha acceso al minimo oggi 6 fabbriche di assemblaggio, bloccando il lavoro sui modelli Golf, ha riferito un portavoce di Volkswagen. Sono questi di Prevent Group i fornitori di sedili e parti di trasmissione, quindi mica poco. Ancora dall'Europa, ma in questo caso dalla Gran Bretagna, che tra l'altro è poi la vera convitata di pietra al vertice di Ventotene. I grandi progetti per le infrastrutture nel Regno Unito risultano congelati per l'incertezza creata dal clima della Brexit, è quello che scrive il Financial Times, secondo il quale gli investimenti in questo settore, che è vitale per l'economia britannica e non solo per loro a dire il vero, hanno subito una brusca flessione dopo il referendum del 23 giugno. Il volume dei contratti a luglio è sceso del 20% rispetto al mese precedente e del 23% su base annua, da 1,5 miliardi di sterline. L'Italia, allora, qualcuno già ci scrive: bene, ricominciamo con le cronache della vita di Renzi. No, non sono le cronache della vita di Renzi, ma che noia. Allora, c'è un vertice a Ventotene con il premier italiano, il presidente francese e la cancelliera tedesca, ce ne occupiamo perché riguarda tutti noi e riguarda l'Europa. Poi, probabilmente ne concluderemo che questo vertice è uno spottone, non ci saranno grandi conclusioni, ma detto ciò ce ne occupiamo perché ce ne dobbiamo occupare. A proposito di Renzi, dunque, quindi vi riferisco per cattiveria estrema quello che ha detto il Presidente del Consiglio sulle tasse, perché anche questo ve lo dobbiamo riferire, perché fa parte della cronaca di giornata. Scontro con la minoranza del Partito Democratico, Renzi che dice alla minoranza ridurre le tasse, la minoranza PD dice che ridurre le tasse è un errore, e gli risponde Roberto Speranza: stoppa le caricature della sinistra sul fisco, punto. Così chiudiamo la parte sulla politica strettamente interna, almeno per il momento. Renzi ha anche detto, lo sapete, qualche quotidiano ci ha anche ironizzato su questo, che comunque vada il referendum costituzionale, si vota nel 2018. Quindi non più dimissioni immediate e abbandono della politica nel caso vinca il no. Oh, veniamo alle cose un po' più concrete che si prospettano, ossia la legge di stabilità. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiede all'esecutivo, ieri lo ha chiesto ieri dal meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, chiede al governo di fare scelte selettive. Sentiamolo. Beh, noi da tempo stiamo sottolineando, a partire dalla nostra assemblea pubblica, l'idea di una politica dell'offerta che renda competitive le nostre imprese per incrociare le rotte di sviluppo del mondo. Noi abbiamo un apparato industriale importantissimo, siamo il secondo paese industriale d'Europa dopo la Germania. Rafforzare le imprese italiane significa renderle competitive e riattivare il circolo virtuoso dell'economia. Più investimenti, più occupazione, più domanda interna. Dobbiamo però partire dall'offerta e non dalla domanda. Questa la nostra visione di politica economica che porremo all'attenzione del Paese. Noi ci aspettiamo delle scelte selettive, perché con questo debito pubblico è evidente che non abbiamo grandi margini di manovra e dobbiamo essere corresponsabili, non possiamo chiedere la luna, e quindi se riuscissimo a fare delle operazioni selettive sulla produttività, sugli investimenti privati, diamo una linea di politica economica che determina anche quale industria del futuro vogliamo definire. Il presidente di Confindustria è tornato anche sul referendum, diciamo sì, perché è una questione economica, non politica. Sentiamo. Beh, lo sapete, diciamo, noi siamo per il sì perché riteniamo che la governabilità e la stabilità sia la precondizione per una politica economica di lungo termine. Sì. Questo paese non può fare politiche di breve, deve fare politiche di lungo, per farlo ha bisogno di governabilità, di stabilità, e aggiungiamo una terza dimensione che è quella di rimuovere le criticità dell'articolo 5 e rimuovere le conflittualità tra Stato e Regione. Quindi noi siamo sempre più convinti per il sì e ci auguriamo, speriamo e combatteremo affinché vinca il sì. Ed eccoci col primo tema del giorno, 349-238-6666 per i vostri messaggi e per i messaggi su WhatsApp e naturalmente per i vostri SMS. Qualcuno ci scrive che continuiamo a parlare dei debiti regionali, tra poco ci arriveremo, ai debiti regionali. Mentre anche il debito statale continua ad aumentare, noi non lo diciamo, ma come non lo diciamo? Ogni volta che c'è la notizia diamo un aggiornamento. Dobbiamo occuparci di questo perché è un altro tema che riguarda i conti pubblici italiani. Comunque ci arriveremo tra poco, ne parleremo col professor Luca Antonini, che si occupa di federalismo e di federalismo fiscale da molti anni. Ha scritto tra l'altro di recente un libro nel quale parla del nostro federalismo incompiuto, del problema che rappresenta. Ma prima appunto il vertice di Ventotene. Perché Ventotene, tra il 41 e il 44, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e anche Ursula Hirschman furono confinati a Ventotene dal regime fascista, qui concepirono e scrissero il manifesto di Ventotene per promuovere l'idea di un'unione degli stati europei. Scrivevano tra l'altro che bisogna gettare le fondamenta di un movimento che sappia mobilitare tutte le forze per far sorgere il nuovo organismo, che sarà la creazione più grandiosa e più innovatrice sorta da secoli in Europa, per costituire un largo Stato federale, il quale disponga di una forza armata europea al posto degli eserciti nazionali, spazi le autarchie economiche, spina dorsale dei regimi totalitari. Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore. Adriana, buonasera. Buonasera. Mi pare che siamo ben lontani dalla visione di Spinelli, Rossi e Colorni, Assolutamente sì, direi proprio che l'Europa per ora non ha preso quella strada. Decisamente no. Senti, Adriana, allora si arriva a questo vertice che rischia, parliamoci chiaro e diciamolo anche brutalmente, rischia di essere solamente uno spottone, perché i tre leader che arrivano a questo vertice sono tre leader impegnati anche su tre fronti elettorali ed è ben difficile che in queste situazioni si arrivi a qualche decisione conclusiva o anche a qualche dichiarazione conclusiva. Ma forse qualche cosa, diciamo, perlomeno la conferenza stampa è in programma alle 6, ma probabilmente la parte più sostanziosa sarà quella della cena tra i tre leader e quello non sappiamo se uscirà un qualsiasi documento comune. Certamente tutti e tre i leader sono leader in un modo o nell'altro deboli, impegnati appunto in campagne elettorali interne, sulla difensiva dentro casa, quindi in questa situazione è difficile aspettarsi delle grandi novità, sarebbe una sorta di miracolo di Ventotene. Al tempo stesso però il vertice di Ventotene si inserisce nella preparazione di quello di Bratislava, che ci sarà appunto il 15 settembre, ed è non a caso che Merkel proprio questa settimana vedrà altri 13 leader europei proprio per la preparazione di Bratislava. Il suo portavoce, della Merkel, del cancelliere tedesco, oggi ha detto che Ventotene si inserisce nella preparazione di Bratislava. Quindi, insomma, credo che Ventotene sarà essenzialmente il tentativo di un coordinamento delle politiche tra i tre maggiori paesi dell'euro. Allora Adriana, io ti interrompo perché siamo in grado di collegarci con Gerardo Pelosi, che è l'inviato del Sole 24 Ore a Ventotene. Gerardo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, confermi la lettura di Adriana, cioè l'idea è che sia un momento preparatorio, ma fondamentalmente poco più di questo, poco più della photo opportunity. Ci auguriamo che sia questo. Adesso noi dall'hangar della portaerei Garibaldi scorgiamo l'isola di Ventotene. Abbiamo sentito i rumori dell'elicottero col quale Renzi, Hollande e Merkel sono atterrati a Ventotene, rendono un breve omaggio alla tomba di Spinelli e poi atterreranno qui sulla ponte di volo della Garibaldi, dove si terrà una conferenza stampa prima dei colloqui, quindi è difficile immaginare che ci possano essere delle cose sensazionali. Effettivamente Diana ha ragione, se c'è qualche cosa di sostanza potrà emergere soltanto durante la cena di lavoro, ma anche lì con tempi molto contingentati, molto, molto ristretti. Ognuno cerca di metterci un poco e soprattutto Renzi molta carne al fuoco, addirittura si è parlato di flessibilità, non credo che si possa entrare troppo nel dettaglio, addirittura di piano straordinario per finanziare i siti e i beni culturali dell'Europa, che ovviamente dovrebbero rimanere fuori dal patto di stabilità. Sarà come dire, un po' un elenco delle tête de chapitre dell'attualità europea, a cominciare sicuramente dalla Brexit e dalla preparazione di Bratislava. Ecco, proprio non so se sentite il Sì, rumore, l'elicottero sta sì rientrando. lo sentiamo il rumore. Sembra, Gerardo, poi girerò questa domanda anche a Daniela Cerretelli, che il vero convitato di pietra sia Theresa May, la premier britannica, in questo vertice alla fin fine, no? Sicuramente capire i tempi con i quali possa avvenire questo sganciamento di Londra dall'Unione Europea. Si è anche parlato di divisioni tra un Renzi che dice meglio accelerare i tempi e la Merkel che invece dice beh, diamogli più tempo. Sicuramente la May nell'ultimo incontro che ha avuto con Renzi a Roma ha fatto capire che i tempi non saranno certamente molto celeri, molto, molto rapidi. C'è bisogno di tutta una serie di adempimenti per rispettare quelli che sono gli adempimenti previsti proprio dal Trattato di Lisbona. E questi sono gli snodi fondamentali. Allora, io Gerardo ti ringrazio, so che hai pochi minuti e ti lasciamo ovviamente al tuo lavoro perché tra poco inizierà la conferenza stampa e continuiamo con Adriana Cerretelli. Io vorrei capire, Adriana, tutti gli effetti da questa nuova fase di incontri che comprende anche il vertice di Bratislava, da attenta osservatrice e forse ormai ampiamente delusa osservatrice, che cosa ti attendi? Ah, io, se devo dire esattamente quello che penso, io non mi attendo niente, mi attendo, spero, un'atmosfera positiva tra i tre leader. Questo credo che sia la cosa più importante perché da loro dipenderà poi la possibilità di rifondare un'Europa 27. E comunque volevo aggiungere una cosa a quanto diceva Gerardo. Sicuramente Brexit è il convitato di pietra, ma c'è pure un altro convitato che è Putin e un altro convitato che è Tayyip Erdogan, il presidente turco, perché tutti in qualche modo in questo momento stanno condizionando anche, come dire, le strategie di ricostruzione dell'Europa. Se Erdogan dovesse decidere, e lo ha minacciato, di riaprire i rubinetti dei migranti, dei rifugiati, sarebbe di nuovo una esplosione della crisi migratoria, e questo complicerebbe in un autunno, diciamo, che diventa sempre più elettorale per tutti. Man mano, naturalmente, in Italia abbiamo il referendum ad ottobre, le elezioni francesi e tedesche sono l'anno prossimo, ma Erdogan ha un'arma di ricatto nei confronti dell'Europa enorme, lo stesso a Putin, perché voglio dire, la pace siriana dipende da lui. Quindi ci sono, poi non parliamo del comitato di pietra americano, che ne sarà dei rapporti transatlantici con il nuovo presidente, e chi sarà il nuovo presidente. Cioè, in questo momento io credo che sull'Europa si mescolino delle tensioni interne ed esterne che sono difficili da rimettere insieme in un progetto organico che porti alla sua rifondazione. Ci vorrà tempo, probabilmente anni. Si parla del resto, diciamo, del 2018 perché i negoziati possono cominciare davvero a entrare nel vivo, sia per quello che riguarda Brexit, sia per quello che riguarda appunto il rilancio dell'Europa, anche se naturalmente i problemi da risolvere sono qui, sono subito: la crescita, la disoccupazione, i giovani senza lavoro, senza prospettive, sono problemi che mordono sui governi a tutti i livelli, soprattutto quelli che devono andare alle elezioni. Però purtroppo sono tutti problemi estremamente complicati che non si riescono a immaginare prossima a una soluzione. Tra l'altro Adriana, in un momento nel quale domina, se non ricordo male dal tuo editoriale di ieri, quello che hai definito il cortotermismo, no? Cioè l'idea di guardare sul breve termine, che è un breve termine spesso elettorale. Sentivo da qualche parte nei giorni scorsi c'è un economista che ha calcolato che in Europa mediamente c'è un voto importante, essendo 27 paesi, ogni fra i 3 e i 6 mesi, e dato che molte decisioni si prendono all'unanimità, poi finisce che questi 3-6 mesi di scadenze elettorali continue impediscano, come dire, di arrivare a qualcosa che dia una vista un po' più lunga. Assolutamente sì, poi in questa congiuntura particolare noi abbiamo i 4 grandi paesi dell'Unione, di cui uno ha deciso di andarsene e 3 sono bloccati per diversi motivi di tipo elettoral-politico nella loro possibilità di escogitare soluzioni per il futuro. Non ci dimentichiamo per esempio che la popolarità di Merkel a causa dei rifugiati è precipitata al 47%, ha perso 12 punti. Il buon Hollande ha una popolarità in casa che è del 12%. Cioè, sono delle cose che fanno riflettere sulla loro possibilità di, come dire, e anche quella di Renzi è in netto calo. Quella di Renzi è in netto calo, non dico la percentuale perché non la so, ma certamente siamo lontani dal trionfo delle elezioni europee, molto lontani. Quindi voglio dire, è in questo contesto che si riunisce il vertice di Ventotene. Quindi, al di là della difficoltà di coordinare 27 posizioni diverse in un'Europa sicuramente scioccata dalla Brexit, e quindi anche in alcuni casi può essere speranzosa di ripetere questo voto, però al di là di questo è proprio la debolezza dei leader dei maggiori paesi che condiziona questo momento difficilissimo per l'Europa, sia per appunto le pressioni esterne, sia per le pressioni interne ingovernabili. In un momento non ho citato il problema islamico, che è sicuramente un problema per le nostre società europee, perché questi immigrati che arrivano sono portatori di una società europea totalmente diversa dall'attuale. Noi abbiamo sempre avuto delle società molto omogenee, la società che ci attende in futuro sarà multirazziale. Come la governeremo? Chi saprà accogliere e come? Quale tipo di educazione all'accoglienza e quale educazione per gli immigrati ad accogliere il sistema del quale sono ospiti. Cioè ci sono delle sfide enormi davanti a noi che si intrecciano appunto alla necessità di rilanciare questa Europa amputata dall'Inghilterra. Allora io ti ringrazio. È un momento duro decisamente. Io ti ringrazio, grazie a Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore. Ne vedremo dunque se emergerà qualcosa di sostanziale oppure no dal vertice di Ventotene. Speriamo di sì. Abbiamo i nostri dubbi e li abbiamo espressi. Questo anche per rispondere a chi ancora una volta scrive: servilismo sembra l'Istituto Luce. È un argomento importante, un argomento che riguarda tutti noi, il futuro dell'Europa, comunque la pensiate, cioè che siate per l'uscita dall'Europa o che siate per rimanerci dentro con tutti i crismi, siate a favore di un progetto federalista, di un'Europa ancora più unita o di un'Europa divisa, è una cosa che riguarda e riguarderà tutti noi ed è esattamente per questo che ce ne occupiamo. Punto. Adesso una pausa. Breve tra l'altro, e poi andiamo sui mercati. I mercati che chiudono, chiudo in positivo: Milano guadagna lo 0,22%, il FTSE MIB lo 0,20%, il FTSE On Share, Parigi in negativo dello 0,25%, Francoforte di mezzo punto percentuale, Londra altrettanto, l'America in negativo, meno 0,25% lo Standard & Poor's e meno 0,28% il Dow Jones. A tra un attimo. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Ora io non so chi sia rimasto ad agosto a Milano, ma siamo a livello su al potere i nazisti tedeschi, così anche voi giornalisti ve la fate addosso. Veniamo ai mercati, va? Anzi, la chiusura definitiva di Milano è lievemente meglio di quella che vi ho dato prima, più 0,36% il FTSE MIB, più 0,32% il FTSE Share. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, ciao, buonasera Andrea. Ciao, buon pomeriggio. Allora, che giornata è stata? Beh, sicuramente una giornata diciamo di transizione caratterizzata da tre temi. Transizione perché si aspettano per la seconda parte della settimana dati macroeconomici e appuntamenti importanti, in primis il forum di Jackson Hole, dei banchieri centrali statunitensi, da cui si attendono parole magari un po' più chiare da parte di Janet Yellen, il presidente della Federal Reserve, sui tassi di interesse americani. Quindi tre temi di oggi: sicuramente l'attesa per i tassi di interesse americani, la correzione del petrolio dopo il più 20% circa messo a segno dall'inizio di agosto, quindi tornato sotto i $48 al barile a New York e sotto i $50 al barile a Londra. Terzo tema, alcune operazioni, grosse operazioni di aggregazione nel settore chimico farmaceutico globale hanno attratto attenzione sugli acquisti su questo comparto. Mentre a Milano sicuramente il risveglio delle banche è stato il tema del giorno. Eh sì, appunto, a cosa lo dobbiamo? Cos'è rimbalzino? Che cos'è? Ma sicuramente, vista come era andata la scorsa settimana, attualmente la lettura che gli operatori ne danno è di un rimbalzo. La scorsa settimana l'indice milanese delle banche aveva perso oltre il 7%, quindi oggi c'è in un'assenza sostanziale di notizie particolari sul settore, si è tornati ad acquistare questi titoli, a incominciare dalla Popolare di Milano che ha guadagnato il 4,5% e dal Banco Popolare che ha guadagnato oltre il 2%. I temi sono un po' sempre i soliti, in particolare si è un po' parlato, anche grazie a indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore, sul processo di vendita delle quattro banche che erano state salvate a fine anno Lo ricorderete, la Banca Etruria, Banca delle Marche, la Cari Ferrara, la Cari Chieti, procede il processo di vendita, ma l'attenzione qui sulle banche sono ancora le risposte che si sapranno dare, soprattutto sul tema dei crediti deteriorati e le risposte attese sugli eventuali aumenti di capitale per qualche istituto. Questo per quanto riguarda le banche, appunto, dicevi Popolare di Milano più 4,3, Banco Popolare più 2,31, Bibanca più 1,8, bene, anche Unicredit più 1,34%, positiva oggi anche Fiat Chrysler che guadagna l'1,20%, Azimut più 1,41%, gli assicurativi. Gli assicurativi hanno vissuto come le banche anche oggi una giornata di recupero, erano stati penalizzati sul finale di settimana e oggi Unipolsai ha recuperato un altro 1% e anche le generali hanno recuperato lo 0,8%, diciamo anche ben orientate dall'annuncio di un azionista importante come Francesco Gaetano Caltagirone che ha annunciato di aver acquistato titoli per oltre 2,5 milioni di euro negli scorsi giorni, quindi è un azionista importante con quasi il 3,5% del capitale che quindi supporta con questa sua azione l'andamento del titolo che ha ben reagito. Appunto, si diceva generali, poi c'è Unipolsai che guadagna l'1,13%, bene oggi anche Campari che guadagna l'1,19%, Atlantia l'1,16%, Autogrill? Beh, Autogrill non si è particolarmente mossa, sul listino, ha guadagnato alla fine lo 0,4%, quindi facendo una performance molto in linea con quello che è stato l'indice. La società ha annunciato il perfezionamento di un'acquisizione negli Stati Uniti, in particolare di attività di ristorazione negli aeroporti di Los Angeles e Las Vegas per un importo di quasi 37 milioni di dollari, un'operazione che consolida quindi la posizione di Autogrill negli aeroporti statunitensi, ma che non è stata di dimensioni tali, anche perché è un perfezionamento, quindi non è stata di dimensioni tali da poter scuotere. Diciamo, scuotere il titolo in qualche modo. Esatto. Senti, Mediaset. Beh, Mediaset ha vissuto una giornata diciamo abbastanza volatile, alla fine ha guadagnato lo 0,5%, ma è stata a lungo in rosso. L'attesa è sull'evoluzione del rapporto con Vivendi in merito al contratto che era stato siglato in aprile e poi congelato diciamo così da Vivendi per la vendita della Pay TV di Premium. La novità è che venerdì sera Mediaset ha comunicato ufficialmente di aver depositato in tribunale a Milano un atto di citazione nel quale chiede a Vivendi di rispettare questo contratto e quindi di procedere all'acquisto di Premium entro il 30 settembre. Ogni mese di ritardo sulla formalizzazione dell'operazione comporterà da parte di Mediaset la richiesta di danni per 50 milioni di euro. Chiaramente il mercato che attualmente nei prezzi di Mediaset sconta diciamo lo scenario peggiore o quasi peggiore, cioè la rottura del contratto con Vivendi, il mercato si aspetta che si trovi un accordo, sia questo prima diciamo del 30 settembre, quindi prima di formalizzare l'intesa già raggiunta, oppure che diciamo si concluda l'accordo di aprile e che poi diciamo si trovi in qualche modo un equilibrio con il gruppo francese. Quindi ogni notizia positiva comunque di un avanzamento su questo contratto è destinata a far recuperare il titolo Mediaset che appunto a luglio vi ricorderete aveva perso pesantemente nell'ultima settimana quando Vivendi aveva annunciato la non disponibilità a rispettare l'accordo. Come no? Allora oggi ti sto torchiando Andrea e proseguo Leonardo Finmeccanica. Leonardo Finmeccanica ha guadagnato oltre l'1,5%, sta vivendo un mese di agosto in recupero, ma altalenante nelle ultime sedute. Il focus degli investitori è sull'attività nel Regno Unito di Leonardo, perché il gruppo è molto esposto, in particolare nel settore degli elicotteri, in Inghilterra, e il timore dei mesi scorsi era che il referendum inglese, la Brexit, potesse comportare un cambiamento nei rapporti e nelle commesse del Ministero della Difesa inglese con alcuni operatori del settore, in particolare con l'Unione Europea, e allo stesso modo ci fossero delle modifiche sugli impegni finanziari che il Ministero della Difesa era disposto a mettere in campo. Le indiscrezioni sono degli ultimi giorni, parlano invece di contatti tra il gruppo Leonardo e il Ministero della Difesa per nuove eventuali commesse, come per esempio quella della manutenzione degli elicotteri Apache che sono stati commissionati per la costruzione al gruppo Boeing. Sarebbe chiaramente una commessa che rasserena i rapporti con il Ministero della Difesa inglese, non che siano tesi, ma che insomma fa capire al mercato che si può andare avanti in una collaborazione tra il governo inglese e Leonardo Finmeccanica. Ecco perché il mercato oggi ha premiato il titolo. Allora, a chiudere, i titoli minori, i peggiori, sono Vetria, Visibilia Editore, Innovatech, che perdono il 6,46, il 6,30, il 6,11%. I migliori, Biancamano, più 6,5%, Softec, più 6,7%, e poi c'è Molmed, più 10,71%, Andrea. Sì, per quanto riguarda il titolo Molmed c'è una notizia di mercato: è una società di biotecnologie nata da uno spin-off dell'ospedale San Raffaele di Milano. Questa mattina ha annunciato che di aver ottenuto il via libera da parte della Commissione Europea alla messa in commercio di una terapia cellulare che viene utilizzata per il trattamento delle leucemie e di altri tumori del sangue, un'autorizzazione importante per questo gruppo che appunto ha fatto decollare il titolo fin dall'annuncio e ha chiuso con un rialzo intorno al 10-17%. Ti ringrazio, grazie ad Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore, e buonasera. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo subito dopo e parliamo di debito delle regioni. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, dunque, chiudiamo questa trasmissione occupandoci dei bilanci delle regioni. C'è un pezzo firmato oggi da Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, in edicola oggi, che ci racconta che per quanto riguarda i bilanci e i debiti delle regioni c'è un piccolo, si fa per dire, problema. Ossia che le corti dei conti regionali hanno ripreso in mano i bilanci delle regioni perché ci sono delle nuove regole di bilancio che bisogna rispettare. Io la faccio molto semplice, poi avremo un tecnico che magari ce la spiega meglio, una persona che si occupa di federalismo da tanti anni. Le regioni nella sostanza imbellettavano un po' i bilanci e succedeva che il debito risultava essere molto più basso di quanto non fosse effettivamente. Sono cambiate le regole, le corti dei conti ci hanno messo le mani e succede che il disavanzo complessivo delle regioni è intorno ai 30 miliardi, con il Lazio con un deficit da 10,9, il Piemonte con 7,2 miliardi e la Sicilia che registra un buco di 7 miliardi. E la persona che ci aiuta a capire come funzionano queste cose e che impatto hanno è il professor Luca Antonini, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova. ha presieduto la commissione tecnica sul federalismo fiscale ed è autore, tra l'altro, mi corregga professore se è l'ultimo libro, magari ne ha scritto un altro nel frattempo, di federalismo all'italiana, dietro le quinte della grande incompiuta, edito da Marsilio nel 2013. Professore, buonasera. Buonasera, sì, no, l'ultimo sul federalismo era quello. L'ultima fatica è quella. Allora, professore, ci spiega un po' come funziona questa cosa? Io l'ho detta un po' brutale, ma ho colto il senso? Sì, il problema era questo. Noi con la riforma costituzionale del 2001, in Italia del tutto scelleratamente, è stato introdotto il federalismo contabile, cosa che non ha nessun paese seriamente federalista. Cioè si è permesso alle regioni di farsi le proprie leggi di contabilità e nell'ambito dei principi generalissimi che faceva lo Stato, queste li declinavano a loro uso e consumo. Questa è stata una prassi assolutamente deleteria che ha creato una grande incertezza e una grande confusione nei conti pubblici e regionali. Ogni regione spesso, quando c'erano i buchi, anziché sistemare il buco, rifaceva la legge di contabilità a fine anno, cambiava le regole contabili e così sistemava le cose. Questo è andato avanti fino a quando nel 2011... A raccontarla così, professore, è incredibile. È incredibile, però, soprattutto è incredibile che la Costituzione l'abbia permesso. Cioè, questo è stato un errore madornale della riforma del titolo quinto del 2001, che è già stato corretto perché quella competenza già è stata riportata nel 2012 alla competenza esclusiva dello Stato. Quindi già nel 2012 si è detto addio al federalismo contabile. Dicevo che è una cosa inconcepibile perché il federalismo implica la trasparenza, la confrontabilità delle politiche, qui invece c'era solo confusione. Allora, è lì è nato questo problema, cioè è nato il problema soprattutto dei residui attivi e passivi, cioè spesso una regione contabilizzava, ma lo faceva anche un comune, contabilizzava poste in bilancio chiaramente inesigibili, però venivano postate in bilancio in modo da far quadrare i conti, residui attivi e passivi, clamorosi quelli della Sicilia. Sì. Poi è successo, nel 2011 è stato approvato uno dei decreti del federalismo fiscale della legge 42 del 2009 che ha introdotto l'armonizzazione contabile, quindi ha detto addio al federalismo contabile, diceva, poi dopo che ha avuto anche l'avallo della Costituzione perché nel 2012 è cambiata e si sono state introdotte, entrando in vigore poi definitivamente nel 2015, una serie di regole contabili dirette a mantenere la trasparenza dei conti pubblici. Sì. E fra queste regole contabili c'era proprio l'emersione dei residui attivi e passivi. E quindi da qui nasce il buco che denuncia Trovati. Entrando a regime questa norma che impone la trasparenza dei conti, emerge che qui c'erano 30 miliardi di buco. C'è da dire però che le cose non è che siano addossabili semplicemente alle regioni, e in secondo luogo che c'è regione regione, perché la regione Veneto risulta molto virtuosa rispetto a quello che appare la Sicilia o il Lazio. Quindi facciamo dei distinguo. C'è da dire anche che il problema è stato sia di una riforma costituzionale sbagliata su questo punto, quella del 2001, a cui si è rimediato. Rimediarla ha fatto emergere questo problema che c'era, che si sapeva che c'era, che si sarebbe emerso. Nello stesso tempo però dobbiamo dire che c'è anche un ruolo dello Stato che non è stato molto lineare e soprattutto non è stato coerente con il ruolo che avrebbe dovuto svolgere. E mi spiego, ad esempio i decreti sul federalismo fiscale prevedevano il fallimento politico, cioè prevedevano regole molto dure per chi taroccava i conti o comunque sforava il bilancio che era stato assegnato. Queste regole sono state chiaramente disattese, stiamo parlando degli anni 2012-2013, per esempio è stato inventato un fondo di ripiano trentennale che permette di evitare il dissesto che avrebbe poi condotto al fallimento politico. Sì. Cioè, mentre negli Stati Uniti, ad esempio, un comune fallimento può... politico vuol dire che porti la regione al dissesto e sei fuori, insomma, molto semplice. No? Sì, se porti la regione al dissesto sei incandidabile per 5-10 anni, questa era la logica, che era una sanzione giusta. Una norma di civiltà, direi. Di civiltà, soprattutto in un sistema che dovrebbe ispirarsi al federalismo, come la riforma del 2001. Cioè, se tu dai fiducia e dai responsabilità, poi devi chiedere rigore quando questa viene esercitata male. Mi scusi professore, che dato è dall'inizio della trasmissione dice siete la trombetta di governo di Renzi del centrosinistra, lo diciamo perché così gli ascoltatori, la riforma del federalista del 2001 è firmata dal centrosinistra, ricordiamolo perché lo dobbiamo ricordare sempre quando parliamo di degli errori la retorica federalista, si vede quella riforma assolutamente scellerata. Detto questo, dico però che anche lo Stato è mancato lo Stato forte, quello che c'è per esempio in Germania, cioè negli Stati Uniti, i sistemi federali veri. Negli Stati Uniti un comune fallisce, uno Stato fallisce, la California era fallita, Detroit era fallita. Sono procedure concorsuali simili a quelle del fallimento di un'impresa privata. Un chapter 11 per... Non si scherza quando si dà responsabilità. Da noi invece si scherza sempre. Cioè nel momento in cui stavi per arrivare alle procedure di dissesto e al fallimento politico, interviene lo Stato con l'accordo bipartite all'interno del Parlamento. Sì. Nel 2013 e invece un fondo di ripiano sgancia i soldi e poi ci ridarete in 30 anni, questo dicono, oppure ancora altri come in questo caso questi buchi delle regioni emergono anche da una sentenza della Corte Costituzionale che è stata fatta nel 2015, la sentenza 181, dove la Corte ha dovuto inquadrare queste prestiti che lo Stato ha fatto alle regioni per permettergli di pagare i fornitori come anticipazioni di casse, non come mutui come pensavano invece le regioni. Se erano mutuo la regione lo poteva usare liberamente, se l'anticipazione di casse invece era vincolata. Questo ha fatto emergere per esempio i buchi nella regione Piemonte. Ne abbiamo parlato a lungo. C'è da dire che lo Stato lì ha fatto, anche il Ministero dell'Economia, ha fatto una serie di decreti che tutto sommato legittimavano quella scelta della regione Piemonte di inserire, di fare quel tipo di contabilità. Professore, abbiamo veramente 30 secondi perché poi siamo in chiusura, ma queste regole poi dovranno entrare in vigore anche per i comuni, ho capito bene? No, lo stesso problema a mio avviso c'è per i comuni. C'è da dire l'ultima cosa. Sì, brevemente. Gli enti locali sono stati tagliati in questi anni, 7 anni di 80 miliardi. Cioè qui abbiamo il giochetto delle tre carte, lo Stato taglia, poi è chiaro che questi, piuttosto che magari ridurre i servizi ai cittadini, inventano artifici contabili. Poi lo Stato li facilita perché si inventa questi fondi trentennali o gli anticipazioni di cassa per pagare i fornitori, eccetera, eccetera. Quindi da un lato lo Stato fa lo stesso gioco. È lo stesso meccanismo del condono. Cioè io faccio la porcata, la dico molto brutale, faccio la porcata perché tanto so che poi alla fine lo Stato mi perdona. In questo caso ripiana i miei debiti. Grazie al professor Luca Antonini per essere stato con noi. I ringraziamenti vanno a Mauro De Corno in redazione e Roberta Frisani in regia. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto e anche per i messaggi, anche quelli pessimi che abbiamo sentito e che vi ho letto poco fa, e anche per quelli buoni naturalmente. La trasmissione torna domani, come sapete la versione estiva di Focus Economia termina alle 18, la trasmissione torna domani dopo il GR delle 17, sempre con me, poi appunto venerdì torna Sebastiano Barisoni. A domani. Radio 24. La passione si sente.